purtroppo è accaduto che in una pagina web che era stata pubblicata nel 2000 da PeaceLink e in cui era diffuso un appello ambientalista, una persona che risultava firmataria di questo appello ha detto di non averlo mai firmato e quindi ha deciso di citare in giudizio l'associazione PeaceLink e alcuni suoi rappresentanti chiedendo un risarcimento di 50.000 euro. In primo luogo, in questa pagina web c'era un appello sulla emergenza ambientale generata dall'uranio impoverito che risaliva appunto alla guerra del Kosovo. In questo appello di ambientalisti, tra l'altro guidato da Giorgio Nebbia, facevano delle considerazioni sullo stato di salute del pianeta in generale, su quelle che erano state le ripercussioni delle guerre, in particolare sul lancio dell'uranio impoverito nella guerra del Kosovo. Oltre 60 intellettuali avevano firmato quell'appello, c'erano giornalisti, docenti universitari, esponenti di varie associazioni. Fra questi nomi appariva anche il nome e il cognome di una persona che ha detto: io non ho mai firmato questo appello. E quindi, poiché il suo nome e il suo cognome appariva su una pagina di PeaceLink, ha deciso di chiedere i danni e ha chiesto 50.000 euro a PeaceLink. Va comunque specificato che questa persona non ha esercitato il suo diritto a chiedere né una rettifica né una rimozione, quindi così direttamente ha chiesto il risarcimento. Va inoltre specificato che questo appello non era partito da PeaceLink, ma circolava ampiamente sulla rete e partiva da altri siti web. Questa storia è una storia che è particolarmente interessante e preoccupante al tempo stesso, perché se si dovesse affermare il principio che un qualsiasi errore di un appello che circolasse sul web e che venisse ripreso da un qualunque utente di internet dovesse costare 50.000 euro, e a questo punto la libera circolazione delle informazioni su internet, con quello che comporta, anche con la possibilità che queste informazioni contengano degli errori, sarebbe seriamente compromessa. Ovviamente chi riprende un appello da internet e lo rilancia non ha la possibilità, ad esempio, di controllare tutte le informazioni una per una contenute in esse e tutti i firmatari. La cosa che in genere si controlla è la veridicità della fonte, l'autenticità della fonte. Purtroppo PeaceLink, associazione di volontariato e realtà che produce informazione dal 1991, ha già dovuto sostenere un altro processo, questa volta 10 anni fa, infatti è il decennio dal cosiddetto Italian Crackdown, quando venne accusata di avere diffuso su rete telematica programmi copiati. In quel caso il giudice si rese conto che l'accusa era totalmente infondata e ne uscimmo a testa alta. Noi stiamo raccogliendo dei fondi per le spese legali e per far fronte a questa enorme richiesta di risarcimento. Ci auguriamo che nel caso in cui riusciamo ad avere la meglio, questi fondi possano essere appunto destinati a una causa buona, benefica, umanitaria, e abbiamo individuato nell'Africa Peace Point il punto di riferimento, un'associazione pacifista africana che ha sede a Nairobi. Venerdì prossimo, venerdì 25 alle ore 9, PeaceLink sarà in campo con una manifestazione non violenta a Taranto insieme a tanti altri cittadini che dicono no alla nuova base navale che verrà inaugurata appunto nella zona Chiapparo vicino Taranto. Grande base navale.